5i. Ascolta e rispondi. Ti dispiace aspettare? No, non mi dispiace affatto. Ti dispiace ripetere l'ultima frase? No, non mi dispiace affatto. Ti dispiace telefonare a Carlo? No, non mi dispiace affatto. Vi spiace rimandare l'appuntamento? No, non ci dispiace per niente. Vi spiace andare a piedi? No, non ci dispiace per niente. Vi spiace presentarmi ai vostri amici? No, non ci dispiace per niente.